Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, a tutti buona giornata. Oggi a Salva Danaio ci occupiamo non della solita borsa, non dei mercati finanziari, anche se tra poco vi racconterò come stanno andando oggi i listini del vecchio continente. Ci occupiamo sempre di Europa e sempre di borse, ma il tema sono le borse e i sacchetti di plastica che usiamo o usavamo per i nostri acquisti. Allora, ricapitoliamo un po' la situazione. È un tema che tra l'altro è già stato ospite del nostro programma. Dal 1 gennaio dello scorso anno, come tutti sanno, anche perché quantomeno ve ne siete accorti andando a fare la spesa, nel nostro paese è vietata la commercializzazione degli shopper, tanto inquinanti quanto, almeno fino a quel momento, cari agli italiani che si erano abituati a consumarne fino a 20 miliardi all'anno. Una cifra che diventa ancora più impressionante che se consideriamo che quei sacchetti impiegano ben 200 anni a decomporsi nell'ambiente. I vecchi sacchetti sono stati progressivamente sostituiti negli esercizi commerciali, nei grandi centri della grande distribuzione, da borse fabbricate con materiali diversi, e per chi non può rinunciare all'usa e getta sono arrivati i nuovi sacchetti biodegradabili che troviamo al supermercato appunto e nei negozi. Sul tema però c'è ancora molta confusione, perché ora all'orizzonte addirittura sembra intravedersi un possibile dietrofronti. Il motivo? Abbiamo addirittura ricevuto, pensate, un richiamo da parte dell'Unione Europea. Non ci crederete, per una volta tanto noi italiani siamo stati troppo severi nell'applicazione delle nuove normative europee e nei limiti che ci siamo imposti, al punto di vietare prodotti che in realtà possono circolare negli altri paesi dell'Unione. Quindi il dibattito è aperto, oggi vi spieghiamo che cosa sta succedendo. Quali sono anche, così analizzeremo le abitudini di clienti e negozianti, perché non è poi così vero che tutti quanti si sono adeguati serenamente alle novità. In molti, mi ricordo quando abbiamo fatto anche le altre puntate, si chiedevano, visto che per esempio utilizzavano anche la busta di plastica che era quella che ci si portava appunto a casa dopo aver fatto la spesa, la si riciclava per esempio per buttare la spazzatura, l'immondizia, e molti si sono trovati addirittura impreparati anche di fronte a questo. In molti ci chiedevano: e adesso io che cosa uso? Chiaramente al supermercato adesso si possono comprare sacchetti di questo tipo, però ecco, il tema è quello, bisogna comprarli. Quindi oggi appunto parliamo di questo argomento che anche dal punto di vista della coscienza ambientale appassiona molte persone. Infatti sono state anche tante le campagne di sensibilizzazione ambientale che si sono mosse intorno a questo argomento. Allora, chiaramente aspettiamo come sempre il vostro contributo, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, oppure scriveteci al 349 238 6666. Poi vi do anche tutti gli altri indirizzi che potete utilizzare per interagire con noi, ma prima di tutto vi presento i nostri ospiti di oggi. Un ritorno, quello di Silvia Ricci, ideatrice e responsabile della campagna Porta la Sporta. Silvia, buongiorno e bentornata. Buongiorno a tutti, grazie. Tra l'altro c'è una iniziativa molto molto interessante che tra poco Silvia Ricci ci racconterà, e nell'ambito di Porta la Sporta sta partendo, è partita il 1 novembre, la competizione nazionale fra un gruppo di comuni che si chiama Sfida all'ultima Sporta, per cui se abitate in quel comune vi racconteremo che cosa sta succedendo. E poi chiaramente il mondo del commercio, come si è mobilitato intorno a queste novità, cosa ha fatto, come si è adeguato e cosa farà se adesso addirittura l'Unione Europea ci chiederà di fare marcia indietro, perché c'è una gran bagarra anche al Ministero dell'Ambiente che i cui tecnici appunto sono al lavoro per capire se davvero abbiamo sbagliato per essere stati fin troppo zelanti nell'applicazione delle normative europee. Walter Gianmaria, presidente di Confesercenti Roma e Lazio, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. E buongiorno anche a Roberto Polidori, vicepresidente nazionale di Federmod. Non ce l'abbiamo ancora, no, comunque lo salutiamo dopo. Allora, eccoli qua che subito i ragazzi in regia si sbracciano. Guarda, guarda che ancora il telefono non è pronto, ma comunque tra un po' lo saluteremo. Allora, se non ci volete chiamare, se non volete scriverci un SMS, se volete argomentare un po' meglio le vostre considerazioni, fatelo all'indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it, su Facebook salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Come vi anticipavo nel giornale radio, le borse sono guardinghe. Oggi abbiamo questo grandissimo appuntamento su cui il mondo accende i riflettori: le elezioni presidenziali americane. Sembra che ci sia appunto questo testa a testa fra i due candidati. Ancora il pericolo che ci sia qualche problema in qualche stato, e ancora una volta la Florida appunto verrà tenuta sotto stretta osservazione. Ma soprattutto si teme poi lo stallo al Congresso, visto che ci sono molti provvedimenti da prendere. Se non ci sarà un chiaro orientamento politico al Congresso appunto americano, si temono poi chiaramente delle conseguenze. Sarà peraltro questo il tema che noi affronteremo domani a Salvadanaio, per capire anche se alla luce del risultato elettorale sarà il caso per i prossimi mesi di collocare anche un po' di risparmio, se ce lo abbiamo ancora, in questo grande paese, sia in termini di mercato azionario che di titoli di Stato, chiaramente. Quindi come investire anche negli Stati Uniti alla luce del risultato delle presidenziali statunitensi. Milano sta guadagnando lo 0,49%, stamattina, ieri ha perso quasi un punto e mezzo, recupera un po'. I migliori titoli: Fiat SPA più 2,46%, Finmeccanica più 1,32%, Lottomatica più 1,39%, Banco Popolare più 1,32%, STM più 1,30%, Monte dei Paschi più 1,29%, mentre stamattina abbiamo un segno meno molto forte su Tenaris, che sta perdendo quasi 2 punti, A2A meno 0,34%, Pirelli meno 0,34%, Saipem meno 0,29%. Recupera il dollaro da qualche giorno sull'euro. Il rapporto di cambio euro-dollaro è 1,27,85. Lo spread fra BTP e Bund sta riportandosi lentamente verso i 350 punti base. Allora, andiamo al tema di oggi. Non parliamo di finanza, ma parliamo comunque di qualcosa che ci fa spendere, intanto perché i sacchetti di plastica li utilizziamo naturalmente per la spesa, per fare molti acquisti, ma soprattutto perché se ci servono e se li chiediamo al supermercato, al negozio, qua ce li fanno pagare. Potrebbe esserci di nuovo, dopo questa grande novità di riorganizzazione della tipologia di sacchetti appunto utilizzati negli ultimi mesi, si potrebbe paventare addirittura all'orizzonte la necessità di una marcia indietro. Niente scheda oggi, una bella canzone che parla di plastica, è una canzone che forse molti di noi hanno ballato tanto in discoteca, ma si parla di un mondo di plastica. World in Plastic is Fantastic. Silvia Ricci non è poi mica tanto così, perché l'abbiamo detto prima, quanti sacchetti di plastica, di quelli che assolutamente non si riuscivano a decomporre facilmente, utilizzavamo fino a pochi mesi fa nel nostro paese, quanto ci costava in termini di impatto ambientale. Questo divieto dal 1 gennaio dello scorso anno appunto di commercializzare gli shopper estremamente inquinanti, com'è stato accolto nel nostro paese? Che tipo di osservazioni avete fatto anche dalla vostra attività complessiva Porta alla Sporta? Poi magari avremo modo anche di ricordare qual è stato il vostro impegno in questi anni. Ma allora, diciamo che in realtà a questo decreto si sono uniformati soprattutto i supermercati, che sono andati appunto a sostituire la plastica con i sacchetti biodegradabili compostabili o sacchetti di carta. Certo, i consumatori, soprattutto quelli che continuano a dimenticarsi di portare la sporta, non hanno reagito molto bene, insomma, questo è abbastanza ovvio. Però nonostante tutto, diciamo che gruppi molto attenti all'ambiente come la Coop sono arrivati a ridurre il consumo di sacchetti usa e getta del 60%, che non è tantissimo considerando appunto che questi sacchetti superano i 10 centesimi, quindi diciamo che anche la leva fiscale, insomma, non è abbastanza penalizzante per convincere, diciamo, tutti veramente a attrezzarsi con delle sporte. Qual è stata la leva fiscale utilizzata per incentivare il passaggio da una tipologia di shopper all'altro, quello dal punto di vista ambientale meno impattante?

non è proprio così scontato se parallelamente, come dire, non si disincentiva oppure non si fa delle campagne di educazione che portano l'attenzione su un altro aspetto, perché il sacchetto usa getta non è il nemico principale dell'ambiente, cioè ci sono una serie di problematiche che hanno a che vedere con gli impatti della plastica che finisce in mare, anche se la plastica è una delle 6 minacce dei mari, non è l'unica. Certo. Però insomma abbiamo più spesso visto in televisione immagini del famoso gabbiano strozzato appunto dal sacchetto di plastica ingoiato involontariamente. Soprattutto dall'ingestione di tappi di bottiglie, di plastica frantumata. Rimaniamo al sacchetto, Ricci, adesso, anche perché abbiamo altri ospiti e tra l'altro devo già fare la prima pausa, però magari una battuta a Walter Gianmaria riesco a farla fare, presidente di Confesercente Roma e Lazio. Silvia Ricci diceva i piccoli esercizi commerciali soprattutto hanno fatto più difficoltà ad adeguarsi magari per una catena di una grande distribuzione in termini di costi, come dire, si sostengono un po' più facilmente quando si fanno dei grandi numeri, sia per smaltire le giacenze vecchie sia per magari fare grandi ordinativi di sacchetti di nuova generazione, chiamiamoli così. Il piccolo negoziante fa un po' più fatica. Quali sono state le vostre difficoltà? Ma diciamo che non è proprio tutto così, perché anche il piccolo negoziante si è adeguato, è un piccolo negoziante che poi non ha, normalmente non fa pagare, anche se usa il sacchetto non di plastica, normalmente non lo fa pagare, invece diciamo che la grande distribuzione lo fa pagare, ma come sia giusto che venga pagato, anche perché io penso che questa questione dell'ambiente deve stare al centro dell'attenzione di tutti, anche l'imprenditore, piccolo o grande che sia, deve tenere presente che l'ambiente va salvaguardato. Allora, al di là se la normativa l'abbiamo presa alla lettera prima degli altri stati europei, al di là di tutto questo, io penso che la cultura, diciamo, del consumatore sta pian piano cambiando. Io penso che ci vorrà del tempo sia per il consumatore sia per l'imprenditore, ma diciamo che questa cultura sta cambiando. Io vedo spesso e spessissimo, al di là di quello che si dice, che molti consumatori vanno a fare la spesa ormai con i sacchi, con le di stoffa. Di stoffa o non, perché ci sono anche quelli, diciamo, di un tessuto, diciamo, diverso dalla stoffa. Sembra un po' accettato, però che, diciamo, vengono, che vendono i stessi, diciamo, supermercati, e vedo spessissimo, anche perché diciamo siamo consumatori allo stesso momento, e vedo spessissimo che questi vengono usati e vengono portati e riportati. Diciamo, io penso che noi dobbiamo porre molta attenzione alla questione dell'ecologia. Poi questo nel settore, diciamo, alimentare, ma nei settori, diciamo, che non sono alimentari, per esempio l'uso dei sacchetti di plastica è molto più limitato, diciamo, nell'abbigliamento. Certo, si è passati alla carta, diciamo, con le bustone di carta già da tempo. Diciamo sarà un 90%, un 80%, un 20%, l'80% di carta e il 20% di materiale diverso, però diciamo che un 80% già diciamo usa la carta. Allora, poi per l'abbigliamento sentiremo il segretario generale di Federmoda Confcommercio, che è Massimo Torti, che ci ha raggiunto al posto di Roberto Polidori. Torti, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. Le chiedo un minuto di pazienza, grazie, perché devo andare in pausa e poi comincerò a leggere anche i tantissimi messaggi, le tante vostre considerazioni sull'argomento che ci state mandando, così come sentiremo i nostri due primi ascoltatori che si sono messi in linea oggi, Claudio da Latina, Giorgio da Milano. Allora, eccoci di nuovo in diretta, Salvadanaio ancora buongiorno da Deborah Rosciani. 800 24 00 24 il numero verde che potete utilizzare per parlare con noi un po' di anche tematiche ambientali. Ogni tanto anche noi affrontiamo questi argomenti, parliamo però anche contestualmente delle abitudini di consumo delle persone che ci ascoltano. Allora, andiamo a fare la spesa, utilizziamo, come sapete, da qualche mese a questa parte un sacchetto diverso a quello al quale, rispetto a quello al quale eravamo abituati nei mesi passati, negli anni addietro, plastica un pochino più sottile, oppure addirittura siamo passati a quella busta che magari ci portiamo da casa e che usiamo sicuramente più volte, di cotone e di altro materiale. Questo perché? Perché dal gennaio del 2011 nel nostro paese è vietata la commercializzazione degli shopper più inquinanti e i vecchi sacchetti sono stati sostituiti appunto da borse fabbricate con materiali diversi. Questo ce l'ha imposto l'Europa, ma addirittura l'Europa ci ha anche indirizzato un richiamo di recente, perché a quanto pare siamo stati fin troppo severi nei limiti che ci siamo imposti, al punto da vietare prodotti che in realtà possono circolare negli altri paesi dell'Unione. Allora, su questa ultima novità c'è ancora dibattito. Intanto noi stamattina stiamo esplorando le abitudini nuove delle famiglie italiane, soprattutto come si sono adeguati anche gli operatori del commercio a queste novità, perché non è che non abbiano avuto poi delle difficoltà, pur tutti, lo sentivamo prima dall'esponente di Confesercenti, essendo totalmente d'accordo chiaramente sulle questioni di natura ambientale. Allora, prima di sentire Massimo Torti per parlare appunto del mondo della moda e dell'abbigliamento, volevo sentire un operatore del settore come si è adeguato a queste novità. Claudio da Latina, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci racconti? Guardi, per noi è stato molto semplice, perché non abbiamo avuto la parola che crea disagi, che è la parola facoltativo. Nel momento in cui ce lo impongono, noi ci adeguiamo, e devo dire che anche i clienti hanno accettato di buon grado questa cosa. Quindi, fa pagare la busta, Claudio, lei? Assolutamente no. Non fa un piccolo ricarichino magari sull'articolo che vende? No, nemmeno la coccarda, nemmeno il chiudibusta, non è proprio un discorso che si può fare col cliente. Vabbè, è come se si facesse pagare sempre magari la carta da regalo non quando si imballa, fare, ecco. Quindi no, volevo dire, ho sentito l'intervento sull'esempio dell'Irlanda, ma qui i supermercati già la fanno pagare la busta ecologica. Allora, risentiamo allora magari Silvia Ricci per un attimo sul paragone con il territorio irlandese, le abitudini irlandesi. Sì, non è, cioè tutto il settore alimentare, quindi non solo i supermercati, ma i piccoli negozi, i mercati, eccetera, questa è la differenza. È un caso unico al mondo, non è evidentemente semplice farlo, ma così è. Allora, andiamo adesso a Massimo Torti, segretario generale di Federmoda Confcommercio. Diciamo che mediamente nell'abbigliamento siamo abituati, per acquistare un cappotto, magari un abito di un certo tipo, molto difficilmente si vedeva proprio la bustona di plastica, no? Si è sempre un po' di più utilizzato magari quella di carta, un po' più elegante, però magari per un acquisto un po' più piccolo, dalla, che ne so, intimo piuttosto che appunto dimensioni più contenute dell'articolo acquistato, forse la plastica si utilizzava. Qua il cambiamento come è avvenuto, Torti? Guardi, prima si parlava di facoltà e di obblighi. Ecco, nel nostro settore, quindi quello dell'abbigliamento, della pelletteria, degli accessori, degli articoli sportivi, il passaggio è stato un passaggio di facoltà, quindi l'attenzione all'ambiente in primis è legata ad un'opportunità in termini di promozione e di comunicazione del proprio marchio. Quindi questi due fattori hanno portato soprattutto i negozi, quelli di vicinato, a offrire, ad identificarsi anche attraverso queste buste, che tra l'altro sono diventate nel tempo sempre più pratiche, resistenti e anche particolari, diciamo addirittura in alcuni casi anche opere d'arte, proprio per distinguere per cercare di far sì che il forte riutilizzo anche per andare a fare la spesa anche di altri prodotti potesse essere un momento di attenzione al logo e al marchio dell'azienda, del negozio di abbigliamento. Quindi insomma si è cercato anche un po' addirittura di cogliere questa imposizione come un'opportunità. Esattamente. Di marketing. Ecco, ma più che imposizione è stato fatto anche prima, cioè proprio era un passaggio legato all'attenzione all'ambiente, ma dettato anche da una leva di marketing, che era quella di far sì che il sacchetto non fosse di plastica, non fosse equiparabile a tutti gli altri esercizi di vendita e soprattutto ad un aspetto obbligatorio. Noi abbiamo sfruttato questa possibilità di dare un'evidenza al marchio cercando di utilizzare prima quei sacchetti, diciamo quelle buste di cartone, cartoncino, e dando un'immagine quasi, appunto, dicevo, particolare al sacchetto. Più è particolare, più viene riutilizzato. Avete fatto di necessità virtù. Volevo sentire Giorgio da Milano per poi tornare a Silvia Ricci, però, perché io vorrei anche capire, qualora si continuasse ad utilizzare senza alcun tipo di sensibilità verso queste nuove disposizioni il sacchetto di plastica, quello vecchia maniera, se esiste anche un momento sanzionatorio a cui magari il potenziale esercizio commerciale appunto va incontro e che rischia. Prima però l'osservazione di Giorgio da Milano. Giorgio, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Io sono commerciante di sacchetti, soprattutto ecco, con di plastica e non anche quelli bio così. Però purtroppo ci scontriamo, mi sente? Sì, un po' difficoltà, un po' scatti però. ci scontriamo sempre sul fatto che il sacchetto di plastica costa poco, il sacchetto bio è caro, cioè costa tanto, perciò finché non c'è l'obbligatorietà la gente dice no, mi mandi pure quello di prima, che adesso si ha questa plastica con additivo che la rende un po' biodegradabile. Ma il problema vero non è questo, cioè il problema è che basterebbero dei semplici mangiatori di plastica fuori dai grossi centri commerciali, che a fronte di una di un'emissione di borse di plastica vecchie, usate, come si faceva una volta con i vuoti, dia uno scontrino spendibile e non ci sarebbe più una borsa di plastica in Italia per terra o sulle spiagge, perché tutti andrebbero a versare questa plastica. Sentiamo parte se è fattibile. Parte un po' più di educazione civica da parte ovvio, del cittadino. Quella diamo per scontata. Riguarda la normativa europea, se non sbaglio, Francia è tornata indietro e aveva vietato gli arimessi perché loro che sono i campioni della grande distribuzione si sono accorti che perdevano vendite, e Germania non c'è nessun divieto, si usa la plastica tranquillamente. Ciò non so se sia una normativa europea. Giorgio, la ringrazio. Ricapitoliamo un po' allora tutta la questione con Silvia Ricci, che è la nostra donna su questo argomento, che ci aiuta a capirne qualcosa di più. Il mangia plastica intanto è possibile, per esempio, nel nostro paese. Io adesso, mentre Giorgio faceva questo esempio, mi è venuto in mente che qui alle Sole 24 ore, quando andiamo a prendere il caffè, abbiamo la macchinetta che ingurgita il bicchierino di plastica che abbiamo utilizzato. Tra l'altro è molto divertente perché sembra proprio un mangia, una cosa che mangia appunto questa roba, fa anche un rumore strano. Detto questo, sarebbe possibile addirittura lei vedere allestire nei posti, in posti pubblici, non lo so, magari in ogni comune, un macchinario di questo tipo? Esistono? Ma allora, il problema del riciclo dei sacchetti è un problema anche di costi. Non per nulla ad oggi i sacchetti, che le percentuali di sacchetti riciclati nel mondo sono state sempre quantità ridicole, e molto spesso venivano caricati e mandati nei paesi come la Cina, eccetera. Quindi il punto è che probabilmente il gioco non vale la candela. Questo non vuol dire che i sacchetti devono essere messi di plastica, che non si vogliono più utilizzare, devono essere buttati dove capita, devono essere messi con la plastica. Però a proposito di macchine mangiaplastica, queste ci sono, ma per un tipo di plastica che è più pregiata, e sono appunto delle macchine dove si conferiscono le bottiglie in PET, che ha un valore commerciale molto più alto di quello dei sacchetti di plastica, ovviamente, e vengono appunto dati dei buoni spendibili, e questa è sicuramente un'idea ottima che fa sì che nei posti dove sono installate queste macchine non si trovino bottiglie di plastica nei cestini e per terra. Ecco, questo può avere un senso, ma il riciclo dei sacchetti di plastica non è un elemento, diciamo, che giustifica il consumo di risorse, ma il consumo di risorse è un discorso che vale poi per tutto il monouso, perché tanti non sanno quant'è la percentuale di scarto ad esempio su un chilo di carta che viene riciclata, metà è il scarto, metà è un pulp che viene poi interrato e per cui bisogna trovare comunque. Quindi il discorso che c'è a monte, secondo me molto importante, è quello che dobbiamo il monouso dobbiamo utilizzarlo dove è veramente necessario, e quindi lì utilizzare la soluzione ambientalmente più conveniente, che in alcuni casi può essere il sacchetto compostabile, perché insieme al contenuto va nell'impianto di compostaggio. Dove invece c'è un materiale che non può andare insieme, non è un discorso molto semplice, bisogna fare una valutazione sull'intero ciclo di vita di un imballaggio che noi scegliamo. Allora, intanto ritorniamo però alle nostre abitudini. Fanno impazzire gli ascoltatori che mi scrivono: ma Deborah, lei non va mai a fare la spesa, non lo sa quello che succede. Guardi, io lo ribadisco, perché qualche volta sembra veramente che noi facciamo dei lavori tali per cui viviamo su Marte. Non solo faccio la spesa, mi diverte e mi rilassa moltissimo farla, io mi starei delle ore al supermercato, mi porto dietro un sacco di buste di stoffa, le compro ovunque, ne ho tantissime, me le faccio regalare, addirittura c'è stato un Natale in cui ce le siamo regalate con degli amici. Quindi io proprio, se potessi, abolirei la plastica, il sacchetto di plastica a casa mia. C'è poi l'altro problema che ci sollevano altri ascoltatori, su quelli molto sottili, che effettivamente dicano ci raccontano esperienza con la quale ci siamo imbattuti tutti quanti, che effettivamente una volta usciti dal negozio li troviamo tutti quanti rotti. Non sostengo tengono grande peso, per cui chiaramente vanno utilizzati solamente per una determinata tipologia di acquisto. Un altro ascoltatore che ancora dice: per quelli che hanno la pubblicità, i sacchetti con la pubblicità, come ci indicava prima Massimo Torti, appunto, dovrebbero essere gratuiti se un negozio li utilizza anche a questo fine. Walter Gianmaria, che ne pensa? Mi scusi, ma stavo preso da... Era distratto? Sì, l'utilizzo sì. Come... Allora lo chiedo a Torti, visto che è stato lui che ha sollevato la questione. Torti? Molto, molto interessante. Infatti noi come negozi di abbigliamento sicuramente abbiamo investito proprio come leva di marketing su questo, e ovviamente non troveranno nessun negozio la possibilità di farli pagare, ecco. Anzi, ripeto, davvero ce lo assicura? Il fatto di avere un modello che sia pratico, resistente e particolare consente soprattutto a far sì che molte persone, per andare a fare la spesa del quotidiano, lo portino con sé e continuino a fare pubblicità. Quindi a maggior ragione è un investimento che si accolla appunto al nostro negoziante, ecco. Pier Filippo da Monza, lei che cosa fa? A casa sua aboliti i sacchetti di plastica, non ne vuole neanche sentir parlare. Cosa fa allora? Come porta, riporta a casa la spesa? Pronto? Pier Filippo, sì, la sento, sì. Visto che l'ho ecco, convolta. Allora, io ormai da una ventina d'anni, quando vado al supermercato, non porto né borse né sacchetti, ma recupero le scatole vuote dei vari prodotti, in particolare quelli del latte, che hanno il vantaggio che le cose che metto dentro non si deformano, non si schiacciano. È ovvio che questo vale per la spesa grossa. Certo. Per cui secondo me i supermercati... Fa un gran piacere al supermercato, perché gli porta via tutti quegli imballaggi che loro... E questo serve... Della ricicla come carta... A ridurre prima di tutto l'uso della plastica, ma anche a dare un riuso al cartone, perché poi io ogni tanto, ma credo tutti, una scatola di cartone in casa può sempre servire anche per degli usi dei trasporti. Guardi, temporanei di qualcosa. Pier Filippo, il problema è sempre lì, la nostra pigrizia che è immensa, perché riorganizzare le nostre abitudini potrebbe essere un gioco da ragazzi. Se solo ci soffermassimo anche un attimo a pensare al futuro dei nostri bambini, cambieremmo le nostre modalità appunto di trasporto in 4 e 4-8, però qualche volta per sbrigarci facciamo altro. Sergio dalla provincia di Monza e Brianza, poi torno a Silvia Ricci perché voglio farmi raccontare appunto la loro campagna partita da poco, la sfida, l'ultima sporta che coinvolge 14 comuni italiani. Allora Sergio, buongiorno anche a lei. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono un po' controcorrente. Io dico, a fare la spesa grossa vado con i miei sacchetti, quando vado a fare la spesa piccola preferisco pagare i sacchetti del supermercato, ci posso fare la pubblicità l'Esselunga, che sono biodegradabili al 100%. Ah vabbè, sì, comunque non è proprio neanche quello vecchio tipo che magari ancora qualche negozio ricicla e utilizza ancora. No. Poi diciamo che l'Esselunga fa anche un discorso di... Allora, nell'insalata ci sono le vaschette che hanno un contenitore dove si possono riportare indietro. Sì, è vero. Che loro riutilizzano. Ecco, poi facendo i calcoli, diciamo, sulla spesa per risparmiare il sacchetto, io lo uso come sacchetto dell'umido. E costa, quindi insomma, 10 centesimi a comprarlo. Invece facendo i calcoli del rotolino dell'umido, per comprare i rotolini dei sacchetti dell'umido, costano sui 17 centesimi l'uno. Allora fatto io anche preferisco, tutti i calcoli. Ho fatto tutti i calcoli. Allora preferisco ogni tanto acquistare dei sacchetti dell'umido per usarli come spazzatura dell'umido. Sergio, grazie. Silvia Ricci, diamo il voto al comportamento di Sergio. Cosa le piace e cosa invece gli direbbe di cambiare radicalmente? Beh, diciamo che la soluzione degli scatoloni va benissimo per le grandi spese, poi bisogna comunque abbinare delle borse riutilizzabili che uno tiene in tasca, sì, ecco, infatti. Quindi per essere proprio la perfezione incarnata. Dopodiché io non sono al corrente dei costi dei sacchettini, quelli per l'umido. Probabilmente ci sono dei comuni dalle marche e da quanto il punto vendita ne acquista. In alcuni casi ho visto che costano di meno rispetto ai 10 centesimi, però non è una regola che vale su tutto il territorio nazionale. Io però sono, per quel che riguarda l'umido, per il compostaggio ovunque, anche da balcone, è possibile. Benissimo. Silvia, io ogni tanto le do del lei, ogni tanto ti do del tu, ma ormai ci conosciamo da tanto tempo. Sfida all'ultima sforta. Allora, raccontiamo un po' di questa gara partita il 1 novembre, si protrarrà fino al 30 aprile del prossimo anno fra 14 comuni, il cui numero di abitanti deve essere compreso fra gli 8.000 e i 16.000. Vince chi utilizzerà meno shopper, ma come dovranno dimostrarlo questi comuni, il loro comportamento così virtuoso? Che prove dovranno fare i cittadini? Certo, allora, innanzitutto si è scelto comuni non troppo grandi, in modo che ci fosse la possibilità di informare tutti, far partecipare le scuole, gli esercizi commerciali. Quindi i negozi del piccolo commercio ricevono dei moduli in cui possono annotare, facendo una differenza tra gli scontrini battuti e i sacchetti consegnati, possono arrivare a dare ogni mese la quantità di acquisti che sono stati fatti senza addebito di usa e getta. I supermercati sono in grado di dare questo dato semplicemente facendo un'interrogazione al sistema informatico e poi c'è praticamente tutta la comunità che fa un passaparola per avvisare le persone che non solo modificare abitudini di consumo usa e getta a partire dal sacchetto di plastica, ma poi ci sono tantissime cose che possiamo fare, fa bene all'ambiente, ma questo fa bene alle future generazioni. Infatti il premio di 20.000 euro andrà alla scuola del comune vincitore e già hanno elencato una serie di progetti in cui vorrebbero spendere questi soldi che vanno dalla messa in sicurezza degli edifici scolastici ad altre iniziative per levare ad esempio la plastica usa. Giustamente il premio è stato rigidamente, rigorosamente vincolato. Per concludere, Silvia, ce li ricordiamo i nomi dei 14 comuni? Beh, tutti a memoria li troviamo sul sito di Porta la Sport, però posso dire che c'è una grande prevalenza di nord-est, perché sappiamo che il Veneto è molto avanti per quanto riguarda la raccolta differenziata e sono molto organizzati, quindi abbiamo 4 comuni del Veneto, 4 comuni della Lombardia, 2 comuni dell'Emilia Romagna, 1 delle Marche, 1 del Piemonte. Benissimo. Abbiamo poco centro-sud. Ci sentiamo ad aprile per sentire com'è andata. Grazie a Silvia Ricci per Porta la Sport, Walter Gianmaria di Confesercenti, Roberto Polidori, abbiamo visto Massimo Torti di Federmoda Confcommercio. Grazie a tutti per l'ascolto, da Salva Danaio, da Deborah Rosciani. Grazie, ci risentiamo domani e faremo il punto sul comportamento dei mercati con il risultato elettorale americano. Buona giornata.